Per chi ha posto una reale fede salvifica in Cristo, non vi è maggior obiettivo e suprema gioia che sapere di compiere la volontà di Dio. Pur di compierla, uomini e donne di ogni nazione hanno affrontato i più grandi sacrifici, fino ad esporre la propria vita e a volte anche donarla. Ma come non vi è maggior appagamento nel compiere la volontà di Dio, non vi è inquietudine più grande dell'incertezza di eseguirla. Perciò ripensare a come sia possibile vivere nella volontà di Dio è più che mai opportuno, sia per verificare se abbiamo compreso bene, sia per imparare come essere sicuri che stiamo vivendo nella volontà di Dio. Nelle mie riflessioni prenderò in esame Quantico Testamento TRO. Aspetti che, se non hanno nulla di nuovo, hanno la capacità di rendere serena la nostra coscienza. Per prima cosa, nota a tutti, la volontà di Dio è espressa chiaramente e senza ombra di dubbio nei comandamenti che Dio ha dato. Perciò adorare e rendere il culto solo all'unico vero Dio, riposare un giorno su sette per dedicarlo specialmente ad attività che ci ricordano ciò che Cristo Gesù ha fatto. Onorare il padre e la madre, come non uccidere, non commettere adulterio, non concupire e non rubare, sono espressioni che rientrano nella volontà di Dio. Da questo si deduce che pregare per poter rubare e avere cose illecite non rientra nella volontà di Dio, come chi rende un culto qualsiasi a chi non sia il vero e unico Dio, si macchia di idolatria. Su questo non ci piove. Sono inutili. Perciò tutte le nostre argomentazioni tese a giustificare ogni comportamento che si allontani da queste pratiche, anche le più grandi convinzioni e i più nobili sentimenti devono sottostare alla legge divina. Se imbocco una strada alla quale non posso avere accesso, posso avere la più grande convinzione di fare una cosa giusta, caso mai accompagnato dal nobile sentimento di essere innamorato di una ragazza o di andare a visitare una persona inferma, tuttavia tutto questo non mi rende giusto davanti al codice e la polizia stradale ha tutti i diritti di farmi pagare la contravvenzione. La volontà di Dio espressa e condensata nei 10 comandamenti non è da meno. Chi vuole vivere nella volontà di Dio deve prima di tutto sapere se la sta mettendo in pratica. Per questo, se le proprie convinzioni religiose non sono conformi al volere di Dio, devono essere abbandonate. Il secondo aspetto che mi dà la certezza di vivere nella volontà di Dio è quando la mia sopravvivenza è umana. Un'affermazione che, a prima vista, può sembrare banale, ma nell'approfondirla si capisce che non è così. Dio ci ha creati perché noi vivessimo da esseri umani. Questo rientra nella sua volontà. Se ho fame o sete, non chiedo a Dio se questa è la sua volontà. Mangio e bevo senza ovviamente pormi dei problemi morali. Se invece, per mangiare e bere rubo o uccido, allora ciò che è umano, cioè mangiare e bere, diventa illecito perché non è secondo la volontà di Dio. Perciò è vivere la volontà di Dio quando soddisfo le mie esigenze umane nel contesto della sua volontà. Con questa prospettiva tutto ciò che è umano, se devo sposarmi o no, se devo andare in montagna oppure al mare, se è giusta una professione o l'altra, non deve essere ragione di turbamento morale. Dio rispetta la mia personalità così come me l'ha data. Per cui sposerò la persona che ha le caratteristiche che mi piacciono. Andrò in ferie secondo i bisogni della mia salute, dei miei gusti e delle mie possibilità economiche. Eserciterò la professione adatta alla mia personalità e, tutto questo, senza pormi il problema se sia la volontà di Dio oppure no. So che tutto quello che faccio e che decido è la volontà di Dio. Nulla di meno e nulla di più. Credo che sia deleterio presentare il Dio del Vangelo come un esigente che si rispetti la sua volontà e esaltando l'eventuale rischio di poterla trasgredire senza saperlo. Anche perché creerebbe problemi morali e turbamenti spirituali dai quali Dio stesso ha voluto liberarci. Purtroppo ci sono pesi e problemi che appartengono alla mancanza di maturità delle persone. Quando il mio datore di lavoro mi assegnava la costruzione di un oggetto, la mia parte era di discernere il giusto materiale da utilizzare, di tagliarlo, di saldarlo, di pulirlo e di pitturarlo. Se avessi chiesto ad ogni istante che materiale dovevo usare, come dovevo tagliarlo, come dovevo saldarlo, avrei dimostrato la mia grande incompetenza o la mia immaturità psicologica e avrei certamente perso il compito assegnatomi. Così, dato che la volontà di Dio è che io sia responsabile della mia salute, se gli chiedo di norma come devo vestirmi, cosa devo mangiare, se gli chiedo quale scarpe mettermi, se devo andare in bagno, allora, disonoro Dio perché non vivo la mia umanità da adulto. Sono i bambini che chiedono continuamente cosa devono fare, o le persone adulte portatrici di handicapitolo. Perciò, una totale dipendenza da Dio nelle cose umane non fa che rimarcare un grande deficit spirituale. O sbaglio? E, vero che l'errore umano è sempre presente, ma quando i miei obiettivi sono tesi ad amare Dio, e il prossimo, e questo rientra nella volontà di Dio, quando non ho intenzioni malvagie, quando vivo la mia umanità nel contesto divino, il Vangelo di Cristo mi dice che sto vivendo nella volontà di Dio. Questo è quanto ho capito. È anche vero però che ci sono situazioni abbastanza imprevedibili e complesse per sapere quale sia la volontà di Dio. Per questo Paolo ordina ai credenti di discernere quale sia la sua volontà. Romani 12.2. A questo punto occorre applicare il terzo aspetto che ci concede di sapere se viviamo nella volontà di Dio, ed è la fede. Sta scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio, Ebrei 11.6, perciò è normale che occorra la fede. Ma il punto è sapere cosa si intende per fede. Mi spiego con un esempio. Una volta compreso che il mio desiderio di sposarmi rientra nella volontà di Dio, ora posso anche trovarmi davanti ad un'altra scelta. Qual è la volontà di Dio? Se a me piacciono le donne bionde, è evidente che guarderò tra le donne bionde. Ma se ci sono due bionde, una con i capelli lunghi e una con i capelli corti che mi piacciono, entrambe, chi devo scegliere? Se dopo aver valutato, pregato Dio che guidi la mia mente, riflettuto a lungo nel mio cuore, mi rendo conto che nel profondo del mio essere propendo per quella con i capelli corti, sceglierò la ragazza con i capelli corti con la fiducia che Dio abbia guidato il mio cuore e la mia mente. Questa è la fede che devo nutrire dopo aver scelto. Se ho pregato Dio che guidi la mia mente, devo pure credere che la mia mente abbia valutato giusto e abbia scelto secondo la volontà di Dio. Il credente non può chiedere a Dio di guidarlo in una data scelta e poi dubitare della scelta fatta, perché questo disonorerebbe Dio. E come sta scritto nella lettera di Giacomo, egli sarebbe un uomo con il cuore doppio e instabile nelle sue vie. Giacomo 1.8. Il doppio forse non si riferisce tanto al malvagio quanto al fatto che chiede una cosa per fede, e tuttavia poi per mancanza della stessa vive nel dubbio della scelta fatta. Perciò si disonora Dio se si vive nel dubbio di compierne la volontà quando si cammina secondo le proprie necessità umane nell'ambito della sua volontà, e quando si continua ad essere incerti anche dopo aver pregato che Dio ci dia saggezza. Un tema del genere non può ignorare che, nonostante si osservino questi principi, ci sia la possibilità di non vivere secondo la volontà di Dio. È vero, ma anche in questo la risposta cristiana è sicura. Prima di tutto, occorre ricordare che il Dio delle Scritture e dei cristiani è più grande dell'errore umano, per cui non vi è errore che possa annullare la volontà di Dio. Quando Giuseppe, il figlio di Giacobbe, fu venduto dai suoi fratelli, la cosa fu molto meschina, ma il tutto era nei programmi di Dio per salvare l'intera famiglia di Giacobbe. Il Dio dei cristiani sa trasformare il male in bene. Inoltre, se è vero che il credente possa comprendere male la volontà di Dio e per questo commettere degli errori, è anche vero che Dio si serve degli errori degli uomini perché la sua volontà sia fatta. Se io sposo la persona che potrebbe anche non essere, dal mio punto di vista, la persona adatta per me, è anche vero che da quella persona io posso ricevere tante benedizioni che non avrei ricevuto da un'altra avente le caratteristiche da me auspicate. Questo aspetto fa sempre parte della fede cristiana. Se io ho pregato per una compagna, devo credere che la scelta sarà quella giusta anche se, in seguito, non avrò il matrimonio che mi aspettavo, perché anche quel tipo di sofferenza rientrerà nei piani di Dio. E se il nostro più grande desiderio è compiere la volontà di Dio, di che cosa dobbiamo lamentarci? Oppure, nel profondo del nostro essere non ci è veramente il desiderio di compiere la volontà di Dio, ma bensì essere felici e goderci la vita a modo nostro? Forse, se indaghiamo seriamente, scopriamo con terrore che il nostro più grande obiettivo non è poi quello di compiere la volontà di Dio, ma quello di compiere la volontà di Dio pensando che facendola noi abbiamo una maggiore felicità terrena e miglior risultato nelle cose terrene. Invece, è proprio tutto il contrario. Ecco il vero ostacolo. Mi sembra di comprendere che il più delle volte la ricerca della volontà di Dio sia fatta perché si pensa di non soffrire, si pensa di avere un matrimonio felice e riuscito, si pensa di avere più benessere nella vita, si pensa di fare ciò che ci piace. Quando l'apostolo Pietro ricevette l'ordine da Cristo di mangiare animali impuri, rispose subito: «No, Signore», lo chiamò Signore, è vero, ma intanto disse di no. «E tu come ti comporti? Ricerchi la volontà di Dio? Bene! Ma sappi che la chiamata del cristiano, di norma, è a soffrire». 1 Pietro 2.21. Soffrire in famiglia, dove sovente i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua, 10.36. Soffrire nel mondo, che gli è ostile, Giacomo 4.4. E soffrire perché si odia il peccato, 1 Pietro 4.1. 2.1, 8.2.4. E poiché questa è la volontà di Dio, allora il credente ha nel cuore un cantico di riconoscenza, anche perché sa che la sofferenza produce uno smisurato peso eterno di gloria. 2 Corinzi 4.1, 7. Che io possa vivere, nonostante tutto, nella tua volontà, o Dio. Gennaio 2010. Ellero.